fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ci piace fare festa insieme a loro, insieme a coloro che scelgono di fare festa con noi. E già è bello farne una, pensa a te quando si riesce a fare due feste contemporaneamente. Lo stanno vivendo, per voi è sempre festa, assolutamente. Lo stanno vivendo questi ragazzi che sono venuti a trovarci nei nostri studi. Andiamo a presentarli, partiamo direi giustamente con i due festeggiati. Vai, presentatevi. Ciao, sono Alessio di Limbiate e tra un mese mi sposo. Bravo Ale! Grazie. Ciao, io sono Matteo, 26 anni, sono di Ro, provincia di Milano, e ho appena, sono nel 26esimo compleanno. Bello. E mi hanno appena tirato la torta in faccia questi, però sei già pulito. Sono già pulito perché mi sono lavato, mi hanno lavato. Ti hanno lavato, quindi con la lingua è stato emozionante? Emozionantissimo. Beh, diciamo che esatto, diciamo che da un uomo. Sì, sì, no, infatti ho immaginato. No, dicevo che arrivare a 26 anni per provare questa esperienza vale la pena, no? Di compierli. In verità sono andato nel cesso. Sì. Sono andato con la testa e mi sono lavato dentro. Ah, sì, ok, ok. È stato bello, emozionante. Mai fatto. Beh, insomma, capisci anche cosa vuol dire per un gatto, per un cane, provare una sensazione così, esatto. Adesso invece tu ti sposi esattamente tra un mese o più o meno tra un mese? Sì, più o meno tra un mese. 10 giorni. Ma mi sono pentito già il giorno dopo. Sì, tra l'altro si sposa di mercoledì che non c'ho soldi. Ah, di mercoledì, vero? Che costa meno. Mercoledì, che è il giorno. Povero! Che è il giorno perfetto per dare fastidio agli invitati, no? Poveraccio! Devono prendersi tutti il giorno. E infatti non viene nessuno. Hai fatto da furbo per dare modo di fare un super weekend lungo. Esatto. Quindi dimmi la data giusta. Allora, la data giusta è il 27 di novembre, che è anche il compleanno della mia fidanzata. Ah, pensa te come avete legato le due cose. Esatto. Quindi voi sarete tra gli unici al mondo che potranno fare due ponti a novembre, perché oltre a quello di Halloween, insomma quello di Ogni Santi, c'è anche il matrimonio di Alessio. Esatto. Non è andata male quest'anno. Grande Ale. Generoso. Noi ci andiamo solo perché facciamo il ponte, non per sì, ma quello è chiaro, ma ognuno ha le... matrimonio al Fredo di mercoledì, alle sue motivazioni. Del matrimonio non ce ne frega niente, solo per il ponte. Beh, certo. Penso che da mangiare, davvero. È giusto. Infatti non ti facciamo neanche la busta. Bravo. Perfetto. La busta solo quella giusta. La busta giusta. È bello come modo di dire. Dove vi sposerete? Sempre nel milanese? Sì, sempre nel milanese. Dove ci stanno le sparatorie? Sì, al posto dei fuochi d'artificio vedi gli spari. Tranquillità, un matrimonio tranquillo. Che è la bellissima chiesa di Limbia. Ma se non c'hai soldi. Ma dopo andiamo a mangiare, non c'è ancora. Dopo andiamo a Como. Alla villa di George Clooney? Magari. No, niente. No, vado in un ristorante di Como. Sono specializzato. Ah, io non vedo niente poi. Cioè, c'è un po' di gente, Possiamo fare un saluto a Sasa che è fuori, che facciamo ci guarda. Assolutamente, dovete fare. Possiamo farlo entrare? No, certo, poi lo facciamo entrare. Alessio, allora vuoi dire qualcosa alla tua futura sposa? Vuoi mandarle un messaggio? Sì, che la amo tantissimo, come vedrò a risposare. Grande! Bravo. Ma chi è? Jessico Calcetto. Ah, il famoso. Che poi, tra l'altro, adesso non ho ancora controllato il calendario, ma se fosse così, il nostro Alessio è mercoledì. Salta la Champions per il matrimonio. C'è l'Inter, ma sì, tanto ti fa l'Inter che sono scarso. Ah, beh, quindi sarà già eliminato praticamente. Sì, no, esatto, vanno in Europa lì. Esatto. Però, insomma, è un grande prova d'amore, saltare la Champions per il matrimonio. Ho fatto di tutto per farle sentire che la amo veramente. Bravo. Forse perché l'Inter gioca di martedì e quindi... Esatto. Però attenzione, perché mi diceva fuori onda il nostro Alessio che ha previsto invece della festa un maxi schermo per seguire la partita live. Birra è partita con attenzione annesso corner per le scommesse live. Non c'è soldi per pagare, certo, il matrimonio di sabato, ti vuoi pagare anche Sky? No, ma è per quello, lui ha messo il corner delle scommesse per rientrare. Mi giocherò anche il matrimonio. Esatto, si gioca. Ma lui c'ha Sky abusivo. Il PTV Sky abusivo, pirata, poi arrestano pirata anche lui e salta il matrimonio. Pirata, si vedrà tutto pirata in streaming. Poi però, parliamo anche del compleanno dell'altro festeggiato. Bravo, Teo! stiamo trascurando. Beh, ma Teo, non deve essere io trascurato. Direi che il gioco compleanno di fare outing. Io sono abbastanza storto, In realtà del compleanno non ce ne frega un cazzo. No, insomma, siete gente interessata alle vicende degli altri. Non ce ne frega proprio niente. Si vede, si vede. Teo, io farei outing in diretta. Esatto, noi ci... in diretta. Fuori cazzo? No, audio non vuol dire tanto quello. Tanto non lo vede nessuno. Vabbè, ma è un bravo ragazzo. È un bravo ragazzo, lo conosco da tanto tempo. Ma è dimagrito. Sì, dietro l'orecchio. Ma la domanda è, ma quando è che ci offri da bere? L'amore mi ha fatto male, ma questa sera io voglio solo gli amici. E offrirò da bere a tutti. Ah, però. E dichiarazioni importanti, eh? Intanto c'è sta il con voi? C'è il demonio. Offrirò da bere a tutti, appena sta anche qua. Bene? No, sta solo con noi, ma non sta bene. Sta solo con noi, ma non sta bene. Sì, perché ha avuto dei tremori, un po' degli spasmi. Lui è il fidanzato di Matteo. È il pusher della zona di Limpiate, se qualcuno lo conosce. Arrestatelo. Addirittura. Sta facendo furore, nella nostra. Guarda che roba. Nella nostra pista. Ha tutti gli occhi addosso. Sì, prego, fermatelo. Fammi vedere la follata. Da dove può venire uno così? Da dove può venire? Da Napoli, infatti. È uscito il napoletano che è lui. Ah sì, sì, perfetto, perfetto. Attenzione agli orologi. Ah, dici, allora li teniamo stretti. Where were you, bello sto orologio? Li teniamo stretti. Allora, ragazzi, vuoi dire qualcosa? Tu invece? No, sono contentissimo di avere per i miei 26 anni i miei amici qua. E stasera faremo una bella serata. Bene, bene, siamo contenti. Grazie al convegno. No, ma aspetta, siamo che contenti. Su Instagram. Seguitelo tutti. Vi staremo vicini in questa festa. È arrivato anche l'ultimo. È arrivato Sa. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ci serviva il decimo per il calcetto. Numero 16, panchinaro destro. Usher di Limbiate. Lui è Jessico Calcetto. Ah, Jessico Calcetto è quello che è il ragazzo che ballava in modo come dire, abbastanza coinvolgente. Coinvolgente fuori. Era quel frocetto che ballava. No, siamo in streaming. Ciao a tutti, sono Jessico Calcetto. Esiste veramente, non è Jessico un Calcetto? 25 anni dalla provincia di Milano. Sì. Ma nato a? Nato a Roma. Cosa ne pensi del matrimonio? Origini. Il matrimonio di Ale che si sposa di mercoledì a novembre. Origini. Mio padre è napoletano, mia mamma di Milano è nata in casa. Sua mamma è un bastardo. Mamma è africana in verità. È nata in casa, è pesante. Mia mamma è nata in casa. Ma l'hanno registrata. Più milanese d'occhi così non ce n'è. Siamo in casa Napoli. Ma cosa ne pensi del matrimonio di Alessio? Il mese prossimo, il 27. Alex, auguroni. Alex. Grazie, Gio. Ti vogliamo bene lo stesso. Ti vorrei ricordare dove? A Limbiate. Ma il matrimonio. No, lui è di Limbiate e si sposa a Quarto Giaro. Ma è family friendly questa radio? Sì, sì. Oppure. In che senso family friendly? Possono dire le parolacce. Ma nel senso che. Raga. Ci sono dei tabù o si possono. No, ci sono tabù logici, diciamo così, dai. Allora niente. Niente. Logico. Tutta la tua esperienza intima. Come è stata la prima volta con un uomo? Faticoso. Racconta quella volta che eravamo in due. Dura. È stata in tutti i sensi dura, raga. È stata pesante. Racconta quella volta che eravamo in te. Dove? Non si può raccontare, ma. Via Novara, Milano, raccontiamo? Raccontiamo da picchiato sul vetro. È stata pesante. È stata dura. Insomma, hanno delle storie. Andiamo avanti. Potremmo scriverci un libro. Assolutamente farebbe un successo. Almeno facciamo un po' di soldi, perché sennò rimaniamo poveri. Paghiamo il matrimonio di Ale. Certo, ci vuole anche quello. No, quello se lo paga da solo. Non fa caso. Ci vuole anche quello. Vale, fa un po' caldino. Allora, ragazzi, grazie mille per essere stati con noi. Ricordiamo ancora il doppio. Soprattutto grazie a grazie a Jessico Calcetto. Grazie a Jessico Calcetto. Grazie al convento di Disco Club 27, tutti invitati. Grazie mille, ragazzi. Doppio festeggiamento, compleanno e futuro matrimonio. Ciao. Ciao. Numero uno, grazie.